Mix 24, musica e storia. Bentornati su Mix 24, musica e storia. Io sono sempre Alessandra Fiori e qui con me c'è sempre lui. Chi sei? Sono Franco Schipari, ciao a tutti, ciao Ale. Ciao Franky. Franky, siamo nel 2000. Oh, siamo arrivati nel 2000. Ci siamo lasciati alle spalle la paura del millennium bug e abbiamo festeggiato in tutto il mondo l'ingresso, l'arrivo del terzo millennio. E io, sai che faccio, Franco? Fallo. Lo faccio? Sì, vai. Io do il benvenuto a questo 2000 dandoti un po' di numeri. Ah, dai numeri oggi. Oggi okay, te li do, okay. Torno a dare numeri. Perché nel 2000 in Italia siamo 54,96 milioni di persone. Oggi abbiamo superato i 60 invece. Ecco perché non si parcheggia più. È tutta colpa sì, è quello. È ovvio. Sarà anche perché nascono 543.000 bambini. La speranza di vita è di 76,2 anni per gli uomini e di 82,6 anni per le donne, mentre oggi intendiamo nel 2015, è salita ancora. Gli uomini vivono in media 80 anni, le donne 84,7. Che cosa vuoi? No, perché siete meno stressate, sono sempre di quell'opinione. Beato, sempre sì. Di quell'opinione. Come no. Però dopo il miracolo dei primi anni 60, dove la crescita del PIL era circa nel 70, del 40%, il rallentamento al 25% negli anni 80, la vera frenata al 13% negli anni 90, nel 2000 inizia una vera e propria battuta d'arresto. Fra il 2000 e il 2009, infatti, il PIL sarà, pensa Franco, 10 volte più basso e solo nel 2010 torneremo leggermente a crescere. Insomma, sono tempi molto duri. Ecco, Franky, dici... Dai, ti tiro su. Bravo, bravo. Ti tiro su con il motivo più ascoltato dell'anno 2000. Amaro Love, questa è Anastasia, è iniziata la rivoluzione digitale, sta alle porte. Beh, anche di artisti come lei. Pensa, se il vinile è stato insidiato negli anni 80 dalle musicassette, all'inizio degli anni 90 dai CD, beh, i CD diventeranno così obsoleti dal 2000 piano, lentamente. Ma mica tanto lentamente. Pensa che la Apple nel 2000 compra la SoundJam MP e tutti i suoi sviluppatori in blocco. Si compra la compagnia tutto, con tutti quelli dentro tutto. Che sono i pionieri del downloads. Attenzione, quando la Apple ha fatto il famoso computer, era la mela. Cioè, anche certo. Oggi, però col morso. Sì. Allora loro per poterla superare sono andati dai Beatles e hanno detto non vi disturba se noi mettiamo la mela anche un po' così. Cioè guarda, potete adoperare la mela con il morso, però mi raccomando, non entrate mai nel mondo della musica. Voi fate solo computer. Ma è ovvio, ma figurati se noi ci interessa la musica. Hai capito? Però Franky, i CD vanno ancora fortissimo. Per esempio io mi ricordo a un certo punto inizia, si prestano, si masterizzano. C'erano quelli che li affittavano i CD. Eh sì, però mie care, il vinile resta sempre il vinile, che è quello che poi trovi nei mercatini, nelle soffitte, quelle degli zii, dei genitori, no? E a casa ovviamente di Alessandro Chiappini, il nostro master chef del vinile. Beh, lui è un noto vinile dipendente, però va bene, ok, andiamo al sodo. Vai, ti propongo il single più famoso in vinile del 2000. You know what you are? You are sex bomb, sex bomb. Yeah, you're a sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Give me sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Baby, you can turn me on. You know what you do? Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. E questo è Tom Jones con Sex Bomb. Tom Jones dal 1963 in poi, quando ha cominciato a fare dischi, i famosi 45 giri vinili, quelli veri, quelli che si vendevano tanto, ecco, ne ha venduti veramente tanti. E nel 2000 il signor Tom Jones è stato invitato da Bill Clinton a esibirsi a Washington per i festeggiamenti del nuovo millennio. Poi ci sono altre cose che ha fatto insieme a Pavarotti, eccetera, ma insomma la storia è quella. Però Bill Clinton, dici tu, invece la presidenza di Bill Clinton agli sgoccioli. Perché il 7 novembre del 2000 l'America viene chiamata a votare per il suo 43esimo presidente. In corsa ci sono il repubblicano George W. Bush Jr., figlio dell'ex presidente Bush, e il democratico Al Gore, vicepresidente di Clinton. Ma questa tornata elettorale diventa una delle più contestate della storia americana. Infatti risulta decisivo uno stato su tutti, che è la Florida, che viene prima attribuita dai media ad Al Gore e poi invece verrà assegnata a Bush. Our country has been through a long and trying period. With the outcome of the presidential election not finalized for longer than any of us could ever imagine. Ecco, nel victory speech tenuto in Texas, Bush parla proprio di questo periodo molto difficile perché ha messo tutti quanti alla prova a causa dei risultati delle elezioni presidenziali ufficializzate molto, molto, troppo tardi. Una guerra di nervi anche per Al Gore. Alla fine decisive saranno le schede contestate e poi attribuite appunto dalla Corte Suprema a Bush, che si insedia così alla Casa Bianca il 20 gennaio dell'anno prossimo, del 2001, e diventerà così il 43esimo presidente degli Stati Uniti. The presidency is more than an honor. It is more than an office. It is a charge to keep, and I will give it my all. Thank you very much, and God bless America. Ecco, la presidenza è più di un onore, è più di un ufficio, è un compito da mantenere ed io darò tutto me stesso. Grazie a tutti e che Dio benedica l'America. Così. E come è americano Bush, Franco, giusto? Americano, io me lo ricordo, l'abbiamo seguita in diretta, quella elezione è stata veramente traumatica per tutti quanti noi che eravamo lì, e quello era il primo anno che io votavo, fra l'altro. Ah sì? Votavi sì. In America? Sì, però non ho votato per George Bush. Quindi era il primo anno che votavi e hai avuto l'occasione di non votare. Però ci avevo visto bene, perché poi questo Al Gore che ha perso, ma mi è rimasto sempre qui in quell'area grigia. Invece quello che ha vinto? Quello che ha vinto. Va sai, bene, ma quando andiamo avanti. Quando sei di famiglia, mia cara, quando sei di famiglia. Andiamo avanti, torniamo alla carriera super longeva, mi dicevi, di Tom Jones. Ecco, si dice sempre che dietro un uomo di successo c'è sempre una donna che ha bisogno di un vestito nuovo. Si dicono anche altre cose. Okay, si dicono altre cose. Dietro un grande uomo c'è una grande donna, tu la vedi così, ma va bene. Ecco, dietro un artista così longevo invece c'è un manager importante, un manager di quelli che ti portano a successo e ti fanno rimanere lì per il resto della tua vita. Questo, il manager si chiamava Gordon Mills, molto importante per Tom Jones, morì e pensa che l'artista dice: ah, sei morto, diede il lavoro al figlio, cioè di Tom Jones. di padre in figlio. Infatti lui è riuscito a proseguire il lavoro del padre, le cose giuste, i concerti giusti, insomma le cose che veramente mantengono un artista importante a quel livello dappertutto. Guarda, per Tom Jones compreso il Festival Bar. It's my life, it's now or never. My life is now or never. I ain't gonna live for. Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta Mix 24, musica e storia. It's my Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Io sono Alessandra Fiori, qui con me c'è lui, Franco. Ciao da Franco Schipani. Ciao. Siamo ancora nel 2000, Franchi, e stiamo ascoltando. Stiamo ascoltando Bon Jovi, It's My Life. Anche lui ha partecipato all'edizione del Festival Bar di quell'anno. E questa è una delle canzoni più famose. Bon Jovi ci è particolarmente attaccato perché la inserisce regolarmente in tutte le sue scalette. Non ha importanza dove suoni, dall'Alaska. È un classico. Sì, ormai è diventato un classico. E quindi è un classico, anche lui, anche il tuo Festival Bar, che nel 2000, se non sbaglio, è a Napoli, giusto? Giusto, giustissimo. Allora, il 37esimo festival inizia appunto a Piazza del Plebiscito. Diciamolo bene, se non Antonella Migliaccio si arrabbia. Sì, da muovere la testa. Anch'io, E poi finisce come al solito all'Arena di Verona, sì. Ormai è un classico. Presentano Fiorello, Alessia Marcuzzi e poi... Sai che c'è? Noi che vogliamo c'è? Approfittare per farvi ascoltare i tormentoni di quell'estate del 2000. C'è qualcosa di grande tra di noi che non potrai cambiare mai, nemmeno se lo vuoi. Qualcosa di grande, Luna Pop e Vamos a Bailar, Paola and Chiara, tormentoni dell'estate 2000. E qualcosa di grande succede, anzi di grandissimo, succede in Italia nel 2000, perché riguarda in realtà il mondo intero. Infatti il 2000 è l'anno del giubileo, a Roma arrivano i Papa Boys, te li ricordi, Franco? Fantastici, altro che boy band. I Papa Boys, pellegrini di tutto il pianeta, si ritrovano per le strade della capitale che dal 15 agosto al 20 agosto celebra la giornata mondiale della gioventù. Nel campus universitario di Tor Vergata si radunano oltre 2 milioni di giovani da tutto il mondo per la veglia del 19 agosto e la messa di domenica 20 agosto, alla presenza di Giovanni Paolo II, che così si rivolge a loro. C'è un proverbio in polacco, Ziakim przestajesz, takim się stajesz. Polacy wam przetłumaczą. Vuol dire, se tu vivi con i giovani, tu dovrai diventare anche giovane. Insomma, Papa Giovanni Paolo II si conferma una rockstar praticamente. Grande comunicatore. Sì, grandissimo. E al raduno di Tor Vergata c'è questa folla oceanica. Pazzesca. Ad applaudirlo. Ma se da un lato ci sono i Papa Boys, dall'altro lato del Tevere ci sono altri giovani, sempre provenienti da tutto il mondo, che si radunano a Roma l'8 luglio del 2000. È il primo World Pride della città eterna. Ambra, allora, tu che cosa ci racconti? Un po' le tue impressioni? Cosa si fa qua oggi? Ma si fa una festa incredibile, sembra che finalmente tutta Roma sia gay, l'ho scoperto oggi. Hai capito? Sono tutti gay a Roma? Credo poi in tutta Italia in realtà. La cosa che mi auguro è che non sia una moda, cioè non deve essere né un taglio di capelli né un vestito, questo dovrebbe essere ogni anno, non solo il World Pride, perché io ho partecipato gli anni precedenti e non era così bello. Quindi se questa è una realtà bella e colorata che si sia sempre così. Io vivo a Londra da tanti anni, per me tornare a Roma dove sono nato e avere questo è emozionante. Oggi torni qui e porca miseria, che è successo? Tutti si sono svegliati, quindi mi viene quasi di pensare, ma che faccio, torno a Roma? Ecco, abbiamo sentito prima, era Ambra Angiolini, ma poi comunque personaggi famosi e non famosi, persone provenienti da tutto il mondo, vengono a Roma per gridare forte il proprio orgoglio gay. Questa è la bomba e sono i King Africa, gruppo argentino, che con questo brano hanno veramente, veramente spopolato e sono stati aiutati nel loro successo da una nota catena di fast food internazionale che li sponsorizzava. Me li ricordo, Frankie, me li ricordo. Te lo ricordi il cantante? Quello un po', diciamo che aveva una stazza. Secondo me lo pagavano in hamburger perché alla fine della tournée pesava tanto di più. Può essere, dici? Frankie, non lo so. Allora, insomma, te lo ricordi? Allora, vediamo se ti ricordi questi. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Mix 24, musica e storia. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view. Bentornati su Mix 24 Musica e Storia. Siamo nel 2000, Frankie. Siamo nel 2000, Ale. Siamo nel 2000, abbiamo ascoltato prima dell'introduzione. Abbiamo citato Madonna con Don't Tell Me e questi sono i Red Hot Chili Peppers. Tu sai quanto io ami Madonna, però ti devo dire che confesso che questa volta con i Red Hot non c'è storia. Chiappini, rialzala, ti prego. E meno male che hai rialzato, perché sennò Rachele Caracciolo, la nostra Rachele, che è una fan sviscerata di questi Red Hot Chili Peppers, ci avrebbe tolto il saluto. Era lei che faceva rialza. Abbiamo rialzato, su, calma. Allora Frankie, purtroppo è durissima a questo punto, è tostissima passare dai Red Hot al tuo Sanremo, ma lo dobbiamo fare. Triplo salto mortale, perché lo presenta Fabio Fazio, che coinvolge anche Luciano Pavarotti, Teo Teocoli, Nasazzi, insomma un gruppo di gente. importante, un gruppo. Ecco, originalmente lo doveva presentare Amadeus, che ha già firmato il contratto, quindi lui era tranquillo, vado a fare Sanremo. Invece all'ultimo momento dico no, lo presenta Fazio, se ne è preso una responsabilità. E devo dire che c'è stato anche un momento di panico, perché parte con 16 milioni la prima serata, scende a 13, scende a 12, resta a 12 e risale a 15 proprio nell'ultima serata. Insomma, un mezzo dramma, hanno tutti quanti, come si dice a Roma, smaltito. Hanno vero? Smaltito? sì. Basta che lo dici con un... Ti piace? Lo devi dire composto, hanno smaltito. Hanno smaltito. Sì. Ok, ma chi vince, Franchi? Vincono gli Avion Traveler, la piccola orchestra degli Avion Traveler. Però c'è una canzone importante quell'anno... Che dici, la rappiamo insieme, ci proviamo? No, anche no. anche no, Franchi. Rappala a te. Allora, al tavolo per niente rotondo della Banca Mondiale e del Fondo Monetario Internazionale, cancella il debito, cancella il debito, cancella il debito. Insomma, è Jovanotti che dice cancella il debito. Sì, perché la cancellazione del debito ovviamente si riferisce alla proposta di annullare il debito che i paesi in via di sviluppo hanno nei confronti dei paesi industrializzati. Pensa che bello, ma te lo immagini? Riconosciuta Imagine di John Lennon. Imagine è il sesto e più celebre album della produzione solista di John Lennon. Noto secondo... brano del 2000. Non... Come, non tornare indietro. No. Benissimo. Beh, ma se lo merita. Comunque, questo è il secondo album pubblicato dopo lo scioglimento dei Beatles. È stato registrato nel 1971. Mm-hmm. Penso, torna in classifica nel 2000 a furor di popolo. Comunque, guarda. Rimaniamo in Inghilterra. Ain't no illusion. Try to click with what you got. Taste every potion. Cause if you like yourself a lot, go let it out. Go let it in. And go let it out. Cautious in the most peculiar way. Sister psychosis, don't got a lot to say. She gon' let it out. She gon' let it in. She gon' let it out. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. Go Let It Out, gli Oasis, che sono evidentemente rimasti traumatizzati dai Beatles da piccoli. Però traumatizzati bene. Traumatizzati, sono dei Beatles che non ce l'hanno fatta, in un certo senso. E poi rock DJ Robin Williams, che invece ha mollato nel 1995 i Take That, lui invece senza traumi. E invece il nuovo millennio per la politica italiana si apre con una scomparsa. Il 19 gennaio muore ad Hammamet in Tunisia Bettino Craxi. Dall'esilio Craxi continua a essere presente nella vita pubblica italiana commentandone gli eventi, ma è molto malato e la famiglia a lungo ne chiede il rimpatrio che non arriva. Craxi morirà appunto in Tunisia il 19 gennaio di questo 2000. E il 16 aprile del 2000 si tengono in Italia le elezioni regionali. E sono delle elezioni molto particolari perché sono elezioni a suon di spot. Gentile amica, caro amico, il 16 aprile sarete chiamati alle urne per scegliere il governo della vostra regione. Ma sarà in realtà una scelta più importante, una scelta di campo, o di qua o di là. Sarà una scelta tra declino e sviluppo, tra impoverimento e benessere, tra il rischio di un regime e la certezza della libertà. Con queste elezioni può ripartire la speranza. Dipende anche da voi. Dipende da voi farla diventare una certezza. Ecco, questo naturalmente quello di Silvio Berlusconi, scelta di campo, speranza. Cari amici, benessere, le parole chiave. Sentiamo ora quello di D'Alema. In questi anni insieme abbiamo onorato i nostri impegni, anche quelli più difficili, come nei mesi duri della guerra nel Kosovo. È più forte. E possiamo guardare al futuro con maggiore fiducia e con maggiore serenità. Comincia una stagione delle opportunità. Opportunità per i giovani che cercano un lavoro. Ecco, opportunità, fiducia, serenità, sicurezza, le parole chiave di D'Alema. E musica è un po' diverso in sottofondo. Alla fine convince di più Berlusconi e le elezioni vengono infatti vinte dal centrodestra. I leader di destra chiedono allora al governo di D'Alema un passo indietro e il 24 aprile è l'ultimo giorno del 55esimo governo della Repubblica Italiana, il cosiddetto D'Alema bis. Il 25 aprile infatti Giuliano Amato sostituisce D'Alema alla guida del governo e inizia il governo Amato 2. Le boy band sono più vive che mai. Backstreet Boys, gruppo statunitense, tante nomination ai Grammy, oltre 140 milioni di dischi venduti. 140? Quanto ancora si vendevano i dischi, CD, non ho capito, a questo momento sono molto confuso. Statunitensi erano anche gli NSYNC, trampolino di lancio del nostro bene amato Justin Timberlake. Ecco Franchi, ma il 25 luglio del 2000 si consuma una tragedia nei cieli invece. Un Concorde dell'Air France da Parigi a New York precipita poco dopo il decollo dall'aeroporto Charles de Gaulle. Ci sono 113 vittime. L'aereo supersonico pensa permetteva di volare da Londra e Parigi fino a New York, la tua New York, in sole 3 ore e mezzo. Ma questo gravissimo incidente, diciamo che lo manda definitivamente in pensione e accadrà nel 2003. Però anche in mare non va meglio, perché il 12 agosto del 2000 il Kursk, uno dei più grandi sommergibili nucleari in servizio, affonda nel mare di Barents con 117 uomini a bordo. Voglio che il mondo intero ascolti quello che ho da dire. Che cosa avete fatto per salvare i nostri figli? Quali stupide decisioni avete preso? Quanto ancora durerà questo strazio? Quanto prendono i nostri ragazzi? Ditelo! $50 al mese! E ora sono rinchiusi nel fondo dell'oceano! È per fargli fare questa fine! Nonostante i tentativi di salvataggio, moriranno tutti gli uomini a bordo. Ancora oggi il dramma del Kursk resta uno dei fallimenti più gravi di Vladimir Putin, il leader russo. Ma torniamo nel nostro paese, Franchi, perché io oggi ho sentito un sacco di belle cose, ma pochissime canzoni italiane. Hai ragione. Comunque sì. Nel 2000... Sì. Ci sono già molti dei nostri artisti che riescono a riempire gli stadi. Ecco, due di loro in particolare non soltanto iniziano a riempire gli stadi, ma si sono anche conquistati una grossa fetta del mercato discografico sudamericano. La notte sembra perfetta per consumare la vita, io e te. Ti comunico ufficialmente che Regia ha iniziato un karaoke. Comunque, sì, è partito. È partito il karaoke. Cioè, Migliaccio urla, datemi un microfono! E gli è stato dato, giustamente. Perché è napoletana, ce l'ha il DNA. Secondo me canta bene, così a occhio e croce. Forse, a occhio forse, e croce. Potrebbe, fuoco nel sai. Fuoco, Eros Ramazzotti, tra te e il mare, Laura Pausini, che hanno venduto veramente, veramente tantissimo in Sud America. Franchi, ma lo sai che il 2000 è anche un grandissimo anno di sport per l'Italia? Perché ci sono due momenti. Allora, il primo è l'8 ottobre del 2000 ed eccolo. Riparte dopo 6 secondi, Michael Schumacher ce la può fare. Sì, attenzione, dovrebbe fare. Ce la può fare, al triangolo Mika Häkkinen, quindi Michael Schumacher non compare la sagoma della McLaren, eccola che arriva Michael Schumacher e in testa esplode la gioia dei tifosi sulle tribune. Sì, Michael Schumacher, campione del mondo! Ecco, la grande sfida è tra la Ferrari di Schumacher e la McLaren di Häkkinen. Ma è il primo a vincere il Gran Premio di Suzuka in Giappone. E Michael Schumacher riporta a Maranello, con una giornata di anticipo, il titolo di campione del mondo dopo 21 anni. Naturalmente è l'apoteosi, che mi vuoi dire? No, sto piangendo, scusa se vedi delle piccole lacrime, perché sai, una volta le rosse erano davanti, tutti vedevano rosso, ultimamente non è che stiamo andando troppo bene. No, non soffrire, Franchi, perché scoppia anche un'altra passione sportiva nel 2000. Sì, sempre rossa però. È quella per la vela. Per Luna Rossa, che si gioca nei mari di Auckland, la Louis Vuitton Cup. La grande sfida è tra il timoniere napoletano Francesco De Angelis, skipper della barca italiana, e Paul Cayar, vecchia conoscenza italiana alla guida dell'imbarcazione americana. Pronti a virare? Vira! Veloce in partenza Luna Rossa, più veloce di tanto. Lasca, vai ragazzi, vai tu. Ecco, stramba Lasca, vira cazza la randa. Il Franco, delirio, Franco, il delirio. Ti rendi conto? Ma io mi rendo conto, entravo nei bar anche a Testaccio dove si parlava della Roma. Mi laschi un caffè? Dice, scusa, mi laschi un caffè? Tutti sapevano tutto di vela. Io ti ricordo con terrore che entrai in un negozio a New York e comprai il più grande televisore in commercio proprio per vedere. Dice, dobbiamo vederci la vela, vediamo. Hai investito, ma succede, lo sai che durante i mondiali tutte le cose sportive aumentano esponenzialmente i televisori venduti, i proiettori. Me ci sono cascato proprio con doppia, guarda. Cascato? Sì. Comunque il 6 febbraio del 2000 migliaia di italiani passano l'ultima notte insonne e alle 4 di notte restano incollati al televisore per seguire le regate nel Golfo di Auckland. Luna Rossa straccia America One e si aggiudica la Louis Vuitton Cup. Diventa così lo sfidante ufficiale dell'America's Cup. Oh, quanta strada nei miei sandali, quante ne avrà fatta parte, quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in città. Ecco, naturalmente Paolo Conte, Bartali, perché c'è un'ultima notizia di sport, una brutta notizia, perché il 5 maggio del 2000 se ne va un grandissimo del ciclismo che è appunto Gino Bartali. Aveva 85 anni ed è stato in assoluto uno dei miti dello sport italiano. Let me stay. Let me stay, Giorgio Prezioso, ha iniziato la sua carriera all'età di 16 anni ed era affiancato dal fratello Andrea, che era un po' più grande di lui, però insomma Andrea già collaborava con Jovanotti alla discoteca Veleno di Roma, quindi tutto Frankie, in famiglia. Me la ricordo, c'era il Piper, c'era il Veleno. Tu dove andavi al Veleno? Guarda, ce n'era ancora un'altra, si chiamava Frankie Go. No, quella mia mamma. Te la sei persa, senti, ma io invece ti parlavo di Bartali. Ma anche un altro grande mito se ne va, e stavolta è un mito cinematografico. Se ne va il 29 giugno del 2000 ed è uno dei più grandi attori italiani, Vittorio Gassman. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ecco, Gassman che legge Dante. Ma Franco, sei curioso di sapere cosa c'è nelle sale in questo 2000? Curiosissimo. Ascolta. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza. I 100 passi di Marco Tullio Giordana, film che racconta la storia di Peppino Impastato, ucciso a Cinisi il 9 maggio del 1978 dalla mafia che aveva denunciato, combattuto e anche deriso attraverso i microfoni della sua radio out. E poi c'è un altro film nelle sale che è questo. E sono Shelby della 304. Cosa posso fare per te, Leonard? Senti Bart, ti ho chiesto di non passarmi telefonate, vero? Non sai se me l'hai chiesto? Proprio così, è per via del mio disturbo. Quale disturbo? Della memoria. Amnesia? No, è una cosa diversa la mia. Non ho memoria breve. So chi sono, so tutto di me. Solo che dopo l'incidente non riesco ad assimilare. Franco, io non so se te lo ricordi, però è Memento, diretto da Christopher Nolan, basato sul racconto del fratello. Il film deve la sua fama all'originale montaggio. Infatti sono tutti flashback e flash forward, salti avanti e indietro nel tempo, di 15 minuti, e quindi porta lo spettatore dentro il film facendogli provare una sensazione di smarrimento, non so, simile a quella che prova il protagonista del film che soffre di disturbo della memoria. E sarà candidato a 2 premi Oscar proprio per miglior montaggio e migliore sceneggiatura originale. Che mi vuoi dire che mi guardi? Io volevo sentire Donatella che commentava questo film. Memento? Sì, no, Memento. Povera. Secondo me lo faceva bene, perché era talmente confusa che mettendo i flashback... Hai detto che è confusa, si arrabbierà moltissimo. Ma non ci sente lei. Non lo so, lei cinema, sa tutto. Cinema, attenzione, cinema, Frankie, attenzione. Gladiatore, l'imperatore Commodo ha chiesto di te. Sono al servizio dell'imperatore. Ma perché l'eroe non si rivela e non ci dice il suo vero nome? Perché tu hai un nome. E poi, naturalmente, questo era Il Gladiatore, diretto da Ridley Scott e interpretato da Russell Crowe. Gli altri non li diciamo neanche, perché tanto c'è lui, e il basta. Gladiatore, Russell Crowe. La vita prima e dopo Russell Crowe, come ha detto qualche attrice a Hollywood. Esatto. To share this night together. Could I hold you close beside me? Could I hold you for all time? Could I have this kiss forever? Could I have this kiss forever? Enrique Iglesias e Whitney Houston. Enrique, che ha imparato dal papà come si fanno i duetti. Vi ricordate All of You fatto con Diana Ross? Ha detto: guarda figlio mio, comincio a fare i duetti, da qualche parte arrivi. E aveva ragione papà Julio, secondo me, che dici? Ma credo che ti posso dar ragione a te e anche a papà Julio questa volta, va bene? Questa è Britney Spears con Oops, I Did It Again. Lei ha fatto invece tutto da sola, ha imparato da sola ed è diventata quell'anno molto popolare, perché a parte questo aveva tantissimi altri motivi di successo in tutte le comunque, classifiche oops, del mondo. Oops, I Did It Again non è male. È un bel coraggio. Mi è capitato, l'ho fatto come di nuovo. Oops, eccola. Comunque Franky, siamo arrivati alla fine di questo 2000 e noi ci portiamo dietro le nostre vecchie abitudini e chiudiamo come sempre con un brano che ha scelto Antonella Migliaccio, perché per noi ragazze degli anni 90, ci tiene troppo che io lo dica, anche negli anni 2000 stiamo crescendo, stiamo diventando donne, e per gli immancabili uomini più furbi del mondo, conquistatori stancabili che tanto furbi poi non sono. Parola di Max Gazzè, l'uomo più furbo del mondo. Noi ci vediamo, anzi no, noi ci sentiamo venerdì prossimo con il 2001 e ciao da Alessandra Fiori. Ciao da Franco Schipani, alla settimana prossima, ciao. L'uomo più furbo del mondo, Max Gazzè. L'uomo più furbo del mondo, conquistatore instancabile, attento, ha avuto donne